si glaspe le foglie, ci brulla le cose. Una bella e tempo scose, una bella e tempo scose, le potrete carina. Ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una pelliccia che sposa, una pelliccia che sposa. Le potute camminare, le potute camminare, le potute camminare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna singolar, è una donna, è una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna, è una donna, è una donna singolar, è una donna singolar, è una donna singolar. E tutto a lei, e tutto a lei. Per esempio, io vorrei i due negli occhi. Son due stelle, son due stelle. Chiome. Nere. Guance. Belle. Chiome. Nere. Volto. Bello. Ed ogni parte a cui mi ciampo, che da dire che la pare. Caro amico, non ci scappo. Se la vede da cascata, mi fanno ricomporre, ma dico non ti scappo, non la vieni con la pace. Se la vede da cascata, da cascata, da cascata, da cascata, da cascata. Thank you. Tenta sorte, io so fare differenza. Sospettire lì Al desio, non resisto

sospirano. Costui dalla paura, non so che parla di me stesso. Thank you. Cos'è stato? Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati! cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del faro. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il faro in Alceri è un complimento. Eccolo, ahimè. Non dubitare, e vieni d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrar quanto m'è cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Signor mio, col basti indosso, a la fede a mia nipote, a la fede a mia nipote, a la fede a mia nipote, a meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie! Quanto onore! Guarda, aspetta, tu non sai.

Ma